Andrea Pazzagli, che è scomparso a Castiglione della Pescaia il 31 di luglio di quest'anno, oltre che un bravo allenatore e preparatore di nazionali giovanili, e lo era dell'Under 20 federale, e oltre che un signore, era anche un cantautore, che si dilettava nello scrivere e nell'interpretare canzoni. In un incontro di qualche anno fa mi aveva regalato un suo CD, e a me sembra giusto, visto che stiamo parlando di tristi destini di portieri in questo momento, ascoltare un frammento di questa canzone scritta e interpretata da Andrea Pazzagli, che si chiama La Panchina. Per quel barbone come una casa, passa le sue notti sdraiato sopra, mentre l'anziano, stanco e sereno, le sue gambe si riposa. Camminarci in bilico e poi saltarla è un gioco unico per la bambina, in modo diverso, ma tutti amano quella panchina. Innamorati seduti stretti si sentono chiusi nel loro mondo, mentre un gattino nella sua ombra dorme di un sogno molto profondo. E quella mamma nei suoi pensieri dondola piano la carrozzina, in modo diverso ma tutti amano quella panchina. E un grosso cane alza la zampa. Sì, possiamo sfumare e ricordare così, in questa maniera, un amico del calcio, come è stato in tutti questi anni, Andrea Pazzagli.